10 convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Eh già, si va presto a dire Champions. Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanini, autore di questo programma. Al Milan hanno messo una taglia sullo iettatore che pare sia nascosto da qualche parte a casa di El Shaarawy. Alla Juventus invece stanno cercando Chiambretti dopo quello che ha detto ieri qui da noi. In effetti il Torino ieri non ha tirato in porta, però per provocare i juventini basterebbe scrivere 11 ladri in campo, per esempio. 800 24 00 24, come sempre siete sempre tutti convocati, mentre domani il nemico Mancini sarà sulla panchina del Galatasaray, delle vecchie glorie del Galatasaray. Ma Chiellini, sempre ieri qui da noi, non ha grosse perplessità, perché la vera notizia non sono questi due gol in fuorigioco a Verona e con il Torino, quanto il fatto che la Juventus dopo 4 partite consecutive non ha preso il gol. È importante, come avevo detto anche prima della partita, insomma, era troppo che prendevamo gol. Una squadra come la nostra, se vuol vincere, deve per forza riuscire a non prendere gol, e deve essere la base per poi riuscire a fare di nuovo bene come abbiamo fatto gli ultimi 2 anni. Ecco, oltre a non prendere gol non avete preso neanche tiri in porta. Allora, Chiambretti 5 minuti fa ci diceva che il Torino era bloccato, che forse ha sentito troppo la partita, ma avete lavorato in questi giorni sulla fase difensiva? Che il Torino credo sente già la partita, purtroppo è stata una partita molto simile alle ultime due, contro squadre molto chiuse, solo che le altre partite avevamo commesso un qualche errore di troppo. E poi c'è il Napoli a Londra, che sta cercando ancora qualcuno che sia in grado di rimettere in piedi Higuain. Stamattina c'è stata la facciamo sentire anche la firma del contratto di Zuniga, neanche fosse la regina d'Inghilterra. Però il problema vero è Higuain, che insomma ci vuole qualcuno che lo metta in piedi. Pierluigi Pardo? Dica, come va? Buongiorno a lei. Dove facciamo si trova? Siamo in diretta. Come te la cavi con i massaggi? Come massaggiatore, perché Higuain ha problemi a questo polpaccio e ci vuole qualcuno che lo rimetta in piedi. Sì, io sono arrivato da poco e non l'ho ancora visto, quindi non ho ancora massaggiato la parte del polpaccio, però insomma io penso che Benitez un filo di pedantica lo stia facendo, nel senso che sicuramente non è al meglio. Lui ieri in conferenza ha voluto far capire che sarà in dubbio, che è in dubbio, ma secondo me insomma un giocatore così importante, che tra l'altro stasera festeggerebbe la 50ª in Champions League, ci sarà. Senti, ti faccio l'esame di inglese dopo quello di matematica di ieri. What's the weather like today? Well, it's a bit cloudy, but it's a great atmosphere here at the Emirates Stadium for the Napoli game against Arsenal. Come sono andato? Bene, qualità. Mi sembra Viozzo. Una lingua parlo, a parte il romano, una, questa qua, sì. Sembra Viozzo, ma a proposito... Grazie. A proposito di Benitez, Pierre, Benitez ha sfidato le onde altissime del turnover, per le quali il Napoli secondo me non è ancora pronto, non so come la pensi tu. Onde altissime del turnover, limitando grosso modo i danni nelle ultime due di campionato, proprio per arrivare a Londra a giocare con questa squadra, con la squadra tipo, la partita forse più importante di questo inizio di stagione, la partita della vetrina o forse della consacrazione definitiva, non lo so. Sì, assolutamente. Io credo che le due partite, quella con il Sassuolo e con il Genoa, siano state molto diverse dal punto di vista sia del risultato, ovviamente, della prestazione, ma anche della rotazione degli uomini. Cioè, io credo che Benitez in queste due partite abbia capito che mentre davanti in questo momento ha la possibilità di trovare delle soluzioni alternative, e le risposte che Pandev ha dato contro il Genoa sono esemplari da questo punto di vista, dietro non c'è lo stesso livello di qualità diffusa. per cui quella partita contro il Sassuolo, che poi è stata una partita tagliata a 360 gradi, cioè non è che l'hanno persa solo i difensori, l'ha giocata proprio male il Napoli, pareggiata i difensori, ma è come se l'avesse persa in casa contro il Sassuolo, con tutto rispetto. Insomma, mi sembra che lì, da quel punto di vista, in quel settore lì, in quel reparto lì in difesa, le gerarchie siano un pochino più semplici e la differenza tra titolarissimi e seconde linee in questo momento un po' più grande. Allora, prima di sentire anche gli ascoltatori, 800240024, indovina cosa c'è adesso? 14:30. Oh, posso anche da Londra? Vai. Traffico. Questa cosa del traffico mi esalta, lo sai, Nogaro le Rocca, l'ho sentita tante volte da ascoltatore, mi gasa tantissimo. Tutti convocati. Allora, Conte dice che Tevez non si è allenato, Conte dice io non metto in campo un giocatore zoppo, Conte dice oggi e domattina negli allenamenti farò le valutazioni su Tevez e sulla sua caviglia con i buchi, come abbiamo visto bene su Twitter. Pardo, senti cosa hanno fatto stamattina quelli del Napoli. La vera notizia che c'è già è la presentazione, la cerimonia, perché è stata una cerimonia, della rifirma del contratto di Camillo Zuniga, 5 anni, 35 milioni di euro di clausola rescissoria, e uno show che manco fosse la regina d'Inghilterra. 1, 2, 3, Chuck, motore! Vai Camillo, E pensa Pier che era Zuniga, immaginate sì, fosse sì, stato beh, ma qui è un altro. Al di là dell'importanza del rinnovo, che poi sappiamo, insomma, ha anche un forte valore simbolico, perché Zuniga era stato un giocatore accostato alla Juve, era stato quel famoso caso del mancato saltello sul chi non salta della Juve in ritiro, che poi invece lui aveva fatto in campo durante l'amichevole al San Paolo, quindi ha un valore secondo me che va oltre quella che è l'importanza di questo giocatore, che comunque voglio dire, se era cercato da Conte e se piace, lo sappiamo per certo, anche a Mazzarri, evidentemente è un giocatore utile e prezioso. La clausola rescissoria mi sembra un po' alta, però si sa, le clausole rescissorie sono messe lì, come diciamo noi a Roma, perché magari qualcuno ci casca, no? Cioè magari c'è un pazzo, non che Zuniga valga molto meno di quella cifra, però 35 milioni mi sembrano tantissimi. È un rinnovo importante, per il resto è pieno stile De Laurentiis, nel bene e nel male, ma insomma si chiama entertainment, no? Quindi intrattenimento. Lui da questo punto di vista è il numero uno, e a me, devo dire la verità, piace, nel senso che poi alla fine è un gioco, e quindi mi vanno le cheerleaders, mi vanno benissimo, fa impazzire. I fuochi d'artificio, sì. A me non piace, veramente mi fa impazzire, letteralmente uno dei miei idoli assoluti. 800240024, se De Laurentiis è un idolo anche per voi. Ma tra l'altro, poi tu non l'avrai visto perché eri in volo, I suppose, ma De Laurentiis, yes, che a Londra è come un verme nella mela, cioè si trova sotto queste luci di riflettore, lui diventa matto, era Sky News. Ed è stato affrontato anche il discorso, ma Higuain l'avete rubato all'Arsenal, e lui no, ma non l'abbiamo rubato all'Arsenal, l'abbiamo sentito, abbiamo chiuso in poche ore il contratto in un albergo dell'aeroporto di Venezia, in una stanza di un albergo dell'aeroporto di Venezia, e poi ha detto I'm sorry Arsenal, I'm sorry. numero uno totale, numero uno, però attenzione a non sottovalutare questa operazione e questo sgarbo, perché qui stiamo parlando di una squadra, l'Arsenal, che è alla 16ª partecipazione consecutiva in Champions League. Quindi stiamo parlando di uno sgarbo fatto di un giocatore che ha scelto il Napoli piuttosto che una squadra che, vabbè, probabilmente adesso è prima in classifica, non quest'estate non sembrava la favorita per il campionato inglese, ma è una squadra che da 16 anni è in Champions League consecutivamente. Solo Manchester United e Real Madrid hanno una striscia aperta più lunga di partecipazione in Champions. Quindi Higuain ha fatto una scelta molto molto importante, che racconta che cosa è diventato il Napoli oggi a livello internazionale, cioè una realtà assoluta, e questo è frutto anche di come è cambiato il calcio. Cioè il Napoli ha uno straordinario bacino d'utenza pieno di tifosi, non soltanto a Napoli, ma lo sappiamo che sono ovunque in Italia, in Europa e nel mondo. E insomma, quindi la forza di attrazione di questo club è enorme. E De Laurentiis, da presidente moderno, la sta sfruttando nella maniera più giusta. Per cui qualche anno fa, 10 anni fa, poteva sembrare un'eresia, ma se tu rovesci il discorso, cioè l'Arsenal è un grandissimo club di un quartiere del nord di Londra. Certo, ma... bellissimo, Nick Corby, tutto quello che volete, però insomma Napoli è Napoli, quindi può tranquillamente giocarsela a testa alta, anche se nelle gerarchie del calcio degli ultimi anni Higuaín, che sceglie il Napoli e non l'Arsenal, in effetti fa notizia. Fa notizia, ma la notizia ha svelato anche il fatto che si sapeva che stava trattando un giocatore brasiliano, però non mollavano sulla questione dei diritti d'immagine, e lui facendo del cinema, non solo calcistico, ai diritti d'immagine ci teneva. Higuaín i diritti d'immagine li ha sganciati, e dunque la firma è arrivata presto. Chissà cosa dice Gigi da Bergamo. Buongiorno, Zeta. Buongiorno. Anche io sono convocato. Ma sempre. Grazie, sempre. Ti volevo dire, riguardo la polemica nel rigore, nel rigore del gioco, con Chievo, sul risultato di 1-1. Aspetta un attimo, quale rigore non rigore fuori gioco? La Juventus? Non ho capito, scusa. Non ho capito quale delle tante polemiche, a quale ti riferisci? Con Torino, quello con Torino. Ok, così chiariamo. La partita col Milan, nessuno, non ho più parlato di quella storia lì. Sì. Se quella con Chievo, sul risultato di 1 pari, il difensore del Chievo, la Dracme, che stava marcando troppo, nel fare il pallonetto preso con la mano, non è rigore quello lì, il regolamento, né? Sì, io, Gigi, posso dirti la verità, io questi episodi qui me li dimentico il giorno dopo, poi possiamo fare tutta la dietrologia che vogliamo e tornare a Ronaldo Ceccarini, possiamo tornare a Moggi, possiamo tornare a Dagnolin e a Bettega, a chi volete, insomma. Io sinceramente tendo a dimenticare, io il rigore di Dramé non me lo ricordo, non so tu Pardo, non lo so. No, ma il rigore di Dramé non me lo ricordo neanch'io, ma poi abbiamo affrontato l'argomento, sì. Dai, sicuramente nelle ultime due partite ci sono stati degli episodi, degli errori arbitrali. A Verona sicuramente è stato un episodio clamoroso e indiscutibile, clamoroso da tutto di vista dell'errore arbitrale. In Torino Juve, l'abbiamo commentato ieri, ci sono stati tanti errori a favore ovviamente della Juve, come nel caso del gol che doveva essere annullato, anche errori a favore del Torino perché Immobile era rimasto in campo. Insomma, cercherei di andare avanti, non so cosa ne pensate voi. Poi se fra 5 mesi ci dovesse essere a favore di una squadra qualsiasi una sequela di errori tutti dalla stessa parte, qualcuno può anche avere dei sospetti, ma io la cultura del sospetto la rifugo a prescindere, perché altrimenti ce ne andiamo tutti a casa. Se non ci crediamo, se vuoi tenere il dossier, tienilo tu, che io non ci riesco. No, tienilo conti. Tu il dossier, io però facciamo tenere a Piantanida il dossier, che lui è un ragazzo preciso. Io sono disordinato, Carlito. Figurati io. C'è Francesco da Mantova che mi scrive se le perle di Lotito non mi bastano più. No, non mi bastano perché sono un ingordo. A quelle di Lotito voglio aggiungere quelle di De Laurentiis tutti i giorni. Giuseppe, provincia di Trapani. Pensa un po'. Buongiorno. Buongiorno, Giuseppe. Buongiorno. Scusate, sono un po' emozionato. Ma anch'io. Volevo dare un contributo sugli errori dell'arbitro. Ah. Sabato si è giocata una partita a Siena-Trapani. Sì. Dove il giocatore del Siena prende la traversa e la palla torna al portiere. L'arbitro fischia gol a favore del Siena. Se guardate clamoroso. Se guardate quella lì, e lì non c'entra né Juve, né Milan, né Napoli, né nessuna squadra. Quindi? Sono scarsi. Io non lo so, secondo me arbitrare una partita di calcio oggi è un mestiere difficilissimo. Guardi, quel gol assegnato a Siena è stato di un clamoroso, ma non l'avevo mai visto. Io 47 anni. Sono d'accordo e solidale con l'ascoltatore, immagino sia tifoso del Trapani. Sì. Tra l'altro devi sapere che tutti i telecronisti italiani stanno sognando il Trapani in Serie A, perché l'idea di fare, non so, Favignana il giorno prima della partita, capisci? Sono cose, dice, perché ti fai tutti per il Trapani in Serie A? A parte le battute, no, quell'episodio è stato clamoroso. Sì. Il problema è che la lotta è impari, perché noi abbiamo sempre più telecamere, sempre più replay, e gli arbitri sono sempre quelli. Hanno degli strumenti, hanno le auricolari per parlarsi, hanno questi benedetti arbitri di porta che spesso fanno più casino che altro, però il confronto è veramente impari, quindi questo va tenuto conto. Poi ci sono errori come quello, sicuramente come il famoso Inghilterra-Germania Bloemfontein al Mondiale, che sono delle cose che dici infatti se devo dire tecnologia in campo, me l'ho detto mille volte, dico tecnologia sulla linea di porta. Poi è chiaro che anche qui si apre un ulteriore capitolo, ma fino a quale categoria con le telecamere? Ma questa è una storia che non finisce mai. Io invece saluto Furio Fedele, che non è a Londra con Pierluigi Pardo, ma è ad Amsterdam con il Milan. E senza, esatto. Ma non con Esharawi, non sei con Esharawi. Ciao Furio. Ciao Furio. Senti, raccontami, dimmi la vera storia del faraone decaduto. Qual è? Ahimè, sicuramente molto sfortunato, questo è un peccato, perché praticamente si è visto il replay di quello che era accaduto alla vigilia della partita contro il Torino a metà settembre, quello che sembrava un incidente banale poi si è trasformato in un incidente più grave. Questa frattura del quarto dito del piede sinistro sarà sicuramente riassorbita entro, penso, il limite della sosta della nazionale, però Esharawi proprio in questa sosta avrebbe potuto rispondere ancora una volta alla convocazione di Prandelli e libero dall'assillo dei tre punti potrebbe anche presentare delle nazionali, delle squadre, due squadre contro Danimarca e Armenia che potrebbero dargli anche diverse indicazioni. Esharawi poteva essere sicuramente un azzurro titolare, non sarà così nemmeno questa volta. Non sarà neanche un rossonero titolare, sarà invece rossonero titolare Mario Balotelli. Ne ha parlato Galliani dicendo tutto finito, Mario è improvvisamente maturato. Bah. Balotelli è un giocatore importante, era già cresciuto, deve solo da un lato lui moderare le sue reazioni, dall'altro così essere un attimo come tanti altri che si vedono veramente dei falli molto gravi che secondo me sono da rosso e vengono sanzionati col giallo. Quindi Pierluigi, hai sentito Galliani? Occhio a Balotelli, non me lo toccate. Sembra sia una dichiarazione di pace. Non so che hai una adorazione. No, io penso che questo sia l'anno per Balotelli, nel senso che lui ha mostrato dei lampi eccezionali fino a questo momento ed è certamente il talento più lucente del calcio italiano in questo momento. Quindi in prospettiva dobbiamo tifare tutti per Balotelli perché veramente può portarci molto lontano. Però questa è la prima stagione nella quale lui è chiamato a fare per 10 mesi il leader tecnico della squadra, non il leader spirituale. Non deve parlare di filosofia e religione con Scalfari su Repubblica, deve fare però il leader tecnico della squadra. Quindi è chiamato ad avere un ruolo e una continuità nelle 38 partite di un certo tipo. Fino a questo momento non ci siamo. Purtroppo fino a questo momento non ci siamo, anche perché se uno comincia, viene squalificato, 3 giornate, cioè rischia continuamente di fare stop and go, invece sì. Deve riuscire ad avere una continuità di rendimento, anche se vuoi un rendimento più normale, anche con qualche picco in meno, ma deve diventare un giocatore da 35 partite, 15 gol, un punto di riferimento, sì. perché io credo che sia questo quello che gli manca, no? il talento è indiscutibile. E le valutazioni sociologiche su di lui possiamo stare avanti e fare i dibattiti per millenni. Le chiacchiere stanno a zero, questo deve essere il suo anno. Siamo a ottobre, inizio ottobre ci sono tutte le possibilità. Sì. E io ho trovato il titolo della Gazzetta di oggi molto, molto adatto, perché insomma adesso deve parlare coi gol, deve parlare ancora più che coi gol, secondo me, coi comportamenti da giocatore normale. Certo, questo è vero, deve eliminare questo difettaccio. Prima di salutare Furio Fedele, Furio è un centrocampo che secondo me non è da Champions ancora, naturalmente, ma torna a Montolivo. Sì, ma forse riesco a darti una notizia, stranamente. Montolivo potrebbe essere trequartista, non a centrocampo, perché praticamente queste sono le ultimissime. Sembra che possa giocare lui dietro Balotelli e Robinho, e a centrocampo sono sicuri De Jong e Muntari, e poi c'è un ballottaggio fra Nocerino e Poli. Qualitativamente potrebbe dare qualcosa di più, però è uscito abbastanza stremato dalla sfida contro la Sampdoria e invece è pronto Nocerino, però ecco, ci potrebbe essere Montolivo trequartista. Avremo l'ufficialità a breve, chiaro? Grazie, però certo. C'è questa suggestione. Grazie Furio Fedele, inviato del Corriere dello Sport. Ciao. Pierluigi Pardo, tu stai lì e non infilarti nella metropolitana di Londra. Perché... No, però ho da mattaggiare il colpatto tra un po'. Aspetta un attimo, aspetta un attimo ancora con noi. Un piartempo, no? Fino a 45. A dopo. Sono ostaggio. Tutti convocati. Vi ricordo che staremo insieme fino alle 15:20 con il palinsesto nuovo di Radio 24. Tra poco dobbiamo prestare Pardo al Napoli, deve fare massaggio a Higuain. C'è questo messaggio: se Balotelli avesse subito il fallo, quel fallo da Immobile, domanda Dario. cosa sarebbe successo? Tevez invece è un campione. Sentiamo cosa ha detto Chiellini su Tevez da noi, qui da noi, ieri. Sta facendo la differenza, la sta facendo ogni partita, con il suo atteggiamento e con le sue giocate, insomma. È un giocatore che ci ha dato veramente una scossa incredibile. Io non so cosa vedete voi da fuori, come percepite da fuori, ma molto più del semplice tiro, del semplice assist o dei gol che sta facendo, perché poi può anche non segnare come ieri, ma è un giocatore che obiettivamente ha qualcosa in più degli altri. Ce ne avevano parlato tanto come una testa calda, diciamo, come una persona molto particolare da tenere. Io devo ammettere che per ora ci ha dato tutt'altra impressione. Ha sempre lavorato senza dire una parola, ha sempre sacrificato in allenamento, in partita, e si è sempre comportato con grande rispetto verso tutti. Invece ieri sera c'era, giusto per non insistere, da Pierluigi Pardo da Tikitaka, c'era Cairo, no? Sì, c'era Cairo, e poi c'è stata anche una replica della Juve che abbiamo ascoltato e che ha deciso di non replicare. Vogliamo sentire la parola di Cairo prima? Come no, eccolo qui. Vai. Quello che mi è dispiaciuto, al di là del fatto che ti penalizzano e speri che non accadano più, quel che mi è spiaciuto molto è che Conte si sia arrampicato sugli specchi, cioè è andato a cercare il fallo di Immobile su Tevez, che se avessero espulso Immobile avremmo giocato in 10, ma allora poco prima del fallo di Immobile c'era un fallo di Pogba su Lelkaduri ancora peggio, quindi andava espulso prima lui, quindi poi diventa una cosa incredibile. Questo qua, Cairo. Sì, beh, dicevo che poi abbiamo sentito la Juve, ovviamente, per un minuto di replica, e la Juve ci ha ringraziato, ma ha voluto non commentare, anche perché insomma, e ha fatto bene, secondo me. No, volevano evitare, insomma, anche di perdere energie in vista del match contro il Galatasaray. L'unica precisazione che è filtrata, che abbiamo trovato anche sui giornali, è il fatto di una differenza sottile, perché Cairo nell'intervista dice che Agnelli si è scusato, la Juve dice no, Agnelli non si è scusato, si è detto dispiaciuto. Uno si scusa se è responsabile diretto di un torto arbitrale, in questo caso invece la colpa, eventualmente l'errore, non è stato fatto dalla Juve, quindi questa precisazione di carattere, diciamo, semantico, però insomma che racconta, secondo me, il livello di rapporti. Però ecco, sì, alla fine di tutti questi due giorni di zuffe ci sono alcune cose da dire. Primo, il Torino si arrabbiamo con Conte, questo non ci sono dubbi, nel senso che poi Cairo, che ieri sottolinea il comportamento invece cavalleresco che ha avuto Agnelli, è stata in qualche modo una sorpresa, primo. E secondo, poi, secondo me, molti momenti mediatici, questa guerra dei tweet, la stessa immagine di Tevez con le caviglie distrutte, sono nate perché si è creato un gioco di azione e reazione, sì, che ha portato a questa polemica senza fine. Insomma, per quello che ti dico, normale sarebbe finita subito. Per quello ti dico, benissimo ha fatto la Juventus a lasciar cadere il discorso e non replicare, sennò si poteva andare avanti fino a Natale con questa storia, secondo me, abbastanza di retroguardia. Parliamo con Enzo da Teramo, poi Pier ti faccio sentire un'altra cosina interessante che non riguarda né il Torino né la Juventus, riguarda il Chelsea, indovinate chi? Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Ascolta, io volevo farvi una domanda, sono, diciamo, uno juventino doc, a prescindere dagli errori contro a favore della Juve, ma l'Udinese domenica stava per battere un calcio di rigore, avete visto, no? Sì. Di colpo, dopo 4 minuti di sospensione, il guardalini annulla il gol. Se guardate il replay, era in fuorigioco il giocatore dell'Udinese, ha fatto bene ad annullare il rigore, ma il guardalini non ha alzato la bandierina. Per quale motivo? Con chi ha confabulato? Allora c'è qualcosa che noi non sappiamo. Con Pardo ha confabulato, con Pardo, che è uomo di televisione. Innocente sono. Ma però questo è un bel tema, perché in realtà c'è molta ipocrisia sulla prova televisiva. Allora, io non sono favorevole alla prova televisiva, perché prima di tutto perché facendo il telecronista mi capita spesso di aver bisogno di 5 replay per poter dare un giudizio su alcuni episodi. Altri ovviamente sono semplici, ma è chiaro che la prova televisiva comporterebbe, c'è lì un comitato con un uomo esterno che guarda, valuta. in tempo reale però, potrebbe rischiare di sbagliare. Dici usarla sotto banco è ancora peggio, no? È quello che stai dicendo? Sì, anche perché una volta la usi, una volta no, una volta ti arriva la soffiata. È chiaro che adesso, rispetto a qualche anno fa, la grande novità è la comunicazione che esiste fra cinque persone, sì. Anzi adesso sei persone, l'arbitro con gli assistenti. Quindi questo fa sì che di fatto ci sia già un comitato che prende delle decisioni in tempo reale. L'esempio di Catania Juve dell'anno scorso, ricorderete quello che è successo, no? Quindi questo è un problema. Però anche lì c'è il discorso. Allora fai la prova televisiva, come la fai? Come la applichi? E che succede in quei due minuti nei quali c'è la discussione? L'ordine pubblico chi lo gestisce? No, e se poi sbagli dopo aver visto il monitor, tu pensa a sbagliare dopo aver visto il monitor. Cosa assolutamente possibile, no? Possibile, perché giustamente tu dici la guardo cinque volte e poi non sono ancora convinto. Però la cosa peggiore è utilizzarla in questo modo di straforo, un po' sotto banco e lasciando soprattutto il dubbio. Ma hanno visto la televisione o non l'hanno vista? Secondo me sì che l'hanno vista, si può dire no che non si può dire, e dunque siamo qui a domandarci perché quel rigore è stato levato dal dischetto 4 minuti dopo con una decisione e comunque, che non era corretta. Il consiglio per fare una battuta di Natale a tutti gli altri è: se vi danno un rigore, sbrigatevi, tiratelo subito Non perdere tempo, poca rincorsa, via, si batte direttamente. Ma bravo, hai ragione. Allora, quel signore che ieri non vedeva l'ora, secondo me, di fare un po' di cabaret, fino adesso non c'era ancora riuscito, invece ieri si è alzato a Bucarest alla conferenza stampa pre Steaua Chelsea e se n'è andato. No, non se n'è andato. Sì che se n'è andato Mourinho. Se n'è andato, ma non troviamo l'audio. Comunque se n'è andato, confermo. Pierluigi Pardo. Mourinho, capisci a che livelli arriviamo, cioè se ne va Mourinho se ne va anche l'audio, non è che porta qua. È chiaro, aspettare Mourinho. No, invece a proposito di ex interisti, abbiamo Moratti, funziona? L'audio di Moratti? Sì, eccolo. Cosa sembra scontata? Sì, qualsiasi cosa non è mai scontata, ma comunque potremmo essere anche non lontani, ma finché non ci sono non posso né devo dare nessun annuncio. A me mi sembra che cambi molto nella gestione della società sotto un certo profilo, non è che ci siano degli stravolgimenti. È possibile comunque che arrivino entro questa settimana le firme? Potrebbe anche essere, però dipende da tanti piccoli fattori. Arriverà la firma e sarà Indo-Inter ufficialmente. Pierluigi, qualcuno poi aspetterà ovviamente sempre tutti i giorni sotto gli uffici della Saras, perché ormai lì c'è una redazione, no? Internazionale, che comunque anche se Moratti va via rimane lì. Beh, anche perché lancia bene, i panini sono buoni, per cui il paretto è simpatico. Quindi, no, a parte le battute, devo dire che è quasi psicanalitico il discorso su Moratti, no? Questo è un presidente innamorato di questa squadra. È ovviamente una storia bellissima di generazioni che riguarda il suo rapporto col padre. Mi ricorda veramente, è un po' Fonzi che non riesce a dire scusa, è il presidente che non riesce a dire, non lo può dire sicuramente in questo momento, che il momento del trapasso sta per arrivare. E non è vero che non cambia nulla, perché da quello che ci risulta Moratti terrà il 30% delle quote della società. È possibile addirittura che possa conservare il ruolo di presidente, però sappiamo bene, insomma, questa è una radio della Guardia d'Economia, da Parisoni in poi sono tutti bravi, insomma col 30% non puoi pensare di avere le deleghe e la libertà che hai col 100% o comunque con la maggioranza assoluta. Quindi le cose cambiano tanto. Secondo me è una garanzia per l'Inter che dietro a questi nuovi capitali ci sia comunque l'amore per questo club da parte di Moratti. Ecco, io penso che dal punto di vista dei tifosi dell'Inter, qualche giorno fa c'era questo clima così da trapasso, come se stesse finendo tutto, e secondo me no, nel senso arrivano dei capitali dall'esterno e rimane però un'identità forte di un presidente che ci metterà la faccia, anche se non farà il presidente, sarà lì dentro, quindi mi sembra un buon mix. Anche perché non resta molto altro di italiano all'Inter, e tu lo sai bene. Senti, ti chiamano dal Napoli, devi andare a massaggiare Higuain. Come dice alla fine del primo tempo? Sì, per forza ti tocca. Come dice parlavo inglese. Come dice alla fine del primo tempo tu? No, io dico super spot e basta, no? Cioè non c'ho tè caldi o camomille, cose no. Allora dici super spot, no, devi dire traffico in questo caso, ma in inglese. Allora, aspetta, lo faccio. Traffic. Ci sentiamo domani. Pierluigi Pardo. Ciao. Tutti convocati. Oh, sì, è chiaro, ce l'avevamo, la dichiarazione, cioè Mourinho che sbrocca nella conferenza stampa di Bucarest e se ne va. 800240024, se volete parlarne, intanto lo facciamo sentire. Nobody asks me about matter. We don't need to skip. You are 3 weeks speaking about matter. And now you are speaking about Kevin De Bruyne, so you are not interested in the players that playing, but you have this tendency, you only ask about the guys that are not selected. See you tomorrow. Thank you. Secondo me non vedeva l'ora, non vedeva l'ora di trovare un pretesto, l'ha scovato un po' con l'anternino nella domanda, nelle ripetute domande su quelli che non giocavano invece su quelli che avrebbe schierato per questa partita. Peraltro importantissimo il Champions League, perché come sapete la prima l'ha ciccata di brutto perdendo in casa con il Basilea. 800240024, voglio parlare con gli ascoltatori. Gianni da Treviso, Franco, provincia di Vicenza. Gianni, buongiorno. Buongiorno, grazie innanzitutto di avermi convocato. Grazie a lei di aver risposto. Dica. Niente, due cose, una di ciclismo e una di calcio. Sì, ciclismo stia connesso, sì, perché poi abbiamo un paio di sorpresine, dopo il GR delle 15. Dica. Bene, perché proprio che, come appassionato di ciclismo, mi è piaciuto molto che ieri l'unica battuta sia stata l'appostamento scherzoso il visitore a un calciatore ex di Firenze, Rui Costa, perché si parla solo di calcio. Non è vero, poi glielo dimostro, ma comunque va bene. Esatto, mi smentisca. Sì. E di calcio volevo andare sul Balotelli, da lei tanto diciamo un po' difeso, che sono d'accordo con l'ospite vostro prima, che un giocatore deve fare 35 partite e 15 gol consecutivi durante gli anni, ma per di più io ribadirei che i gol devono essere fatti non metà su rigore e metà nazione, ma più di metà su azione. Un giocatore si dimostrerebbe veramente essere un campione forte. Tanto grazie a lei ne ha fatti 16 in 20 partite, perché questo recitano le cifre, e io non farei tutta questa distinzione tra rigore e gol su azione, perché mi sembra un po' antiquata. Poi i rigori sono da segnare e dunque valgono gol come tutti gli altri, finiscono sul tabellino, quindi questa distinzione non la farei. Certamente è vero che Balotelli è al momento chiave della sua carriera, perché è adesso che, essendo super titolare e anzi prima stella di una squadra importante come il Milan, ha la chance della vita per trasformarsi da enorme talento in fuoriclasse assoluto. Franco, provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei parlare di pallavolo, vista la fantastica torneo europeo che ha fatto l'Italia. Però c'è una cosa che non riesco a capire: noi abbiamo una grande nazionale che però gli manca sempre quel poco per trasformare in oro quello che sta costruendo. Beh, però Franco, posso fare un appunto? Posso muovere un'obiezione a vostro onore? Questa è una nazionale in ricostruzione, perché abbiamo visto vari cicli. Insomma, mi sembra che mai come in questo caso una medaglia d'argento sia una medaglia vinta, non una finale persa. Sì, no? Però c'è una cosa che non capisco: perché c'è la possibilità di convocare il più forte giocatore del mondo, che adesso ha la cittadinanza italiana, e non si convoca quel giocatore? Nel campo femminile era successo con l'Agüero. Io non capisco perché un leader come potrebbe essere Guantorena, per motivi, perché qualche giocatore era contrario, non si convoca. Questo potrebbe essere il quid che fa fare il salto di qualità anche ai giovani, avere davanti un uomo di quel livello lì. Lei dice, in fondo, mettiamo così, di passaportati ne convochiamo tanti, diciamo nel rugby, ma anche nel basket, c'era Dinner ai recenti europei, eccetera eccetera, tanto vale no, ma io sono d'accordo. Secondo me, come fanno d'altra parte tutti, bisogna sfruttare le risorse che si hanno a disposizione. Non c'è niente di illecito, di illegale nell'acquisizione della cittadinanza italiana per questa via. Dunque, se hanno passaporto e sono eleggibili per la nazionale, perché non convocarli? Io sono d'accordo. Marco, Modena, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Genta, e intanto complimenti. Buongiorno. Per la trasmissione. Grazie. Chiamo anch'io per il fantastico europeo che ha giocato la nazionale di pallavolo, e niente, le chiedevo se era possibile convocare il CT Berruto, certo, per farsi raccontare qualcosa magari nelle prossime puntate. L'ascolto sempre volentieri, poi Sì, io volevo solo fare i complimenti perché ho visto la partita. Lo facciamo, Berruto lo convochiamo, stia tranquillo, magari anche domani se possibile. Se ce la facciamo anche domani. Anzi, se vuole intervenire il giorno in cui ce l'avremo, avrà la linea a sua disposizione. Torno a ripetere, la nazionale di pallavolo ha fatto un meraviglioso europeo e ha conquistato una medaglia d'argento, non perso una finale. Poi è chiaro che è una nazionale work in progress, è una nazionale che probabilmente non si aspettava nemmeno di arrivare a questo livello. E poi leggo delle dichiarazioni di grande così di ottimi propositi, no? Ci alleneremo a 200 all'ora per arrivare a prendere i russi. Secondo me, con questa squadra, visto il talento anche fisico a disposizione, ce la possiamo pure fare. Maurizio Torino, invece di cosa parliamo? Sì, grazie di essere convocato, di avermi convocato. Grazie a lei. No, io volevo dire che io sono tifoso del bel calcio e sono andato a vedere Torino-Juve. Allora, un disastro totale, doveva chiedere il rimborso del biglietto se è tifoso del bel calcio, perché lì non sei neanche visto quello brutto, proprio non sei visto il calcio. Questo è vero, questo confermo. Però io volevo testimoniare una cosa, che al momento del gol, cioè io sfido chiunque a aver visto il fuorigioco in tempo reale, perché sono d'accordo. Anche in questo caso, mio caro, sono d'accordo con lei, perché è stata un'azione velocissima ed era onestamente, adesso mi prendo tutti gli insulti del caso, ma non mi importa, 80024, 0024, non scappo, sono qui, anzi, sono qui anche dopo, come sapete, dopo il giro delle 15. Ebbene, caro Maurizio, sono d'accordo, perché quando l'ho vista in televisione, però quando l'ho vista in televisione ho detto ma com'è possibile capirlo, lo si capisce perfettamente dopo il replay, ma a velocità normale è un'azione di una velocità di una rapidità pazzesca, quindi sembra un flipper, doppio colpo di testa, traversa, bam, è questo che fa il tap-in in rete. Era molto molto difficile capire, avere la percezione dell'offside di Tevez. A proposito di derby, visto che siamo ancora in argomento, un'altra battuta di Cairo a proposito di queste scuse di Agnelli, ci sono state, non ci sono state, chissà. Cairo ha avuto un vantaggio arbitrale come quello di ieri, che seguiva il vantaggio di Chievo, dove anche lì ha avuto un buon vantaggio, ha vinto due partite grazie anche a queste cose, accetta, taci, come si diceva, un bel tacere non fu mai scritto, stai zitto, ma farsi prendere in giro è la cosa peggiore. Io ho incontrato il presidente Agnelli dopo la partita, era dispiaciuto, si è scusato, poi voglio dire, evidentemente era contento anche lui dei tre punti, però perlomeno un minimo di stile in più ci vuole, credo, non è bello, insomma. Vabbè, poi sappiamo com'è andata, ne abbiamo parlato prima, la chiuderei qui a loro signori piacendo, se non vi piace ovviamente siamo qui per parlarne ogni giorno dalle 14 alle 15:20. Voglio darvi appuntamento a dopo il GR con questa magnifica dichiarazione della sorella di Garcia, che è stata intervistata dalle Parisienne, perché ovviamente la Roma e l'allenatore della Roma stanno facendo Eurofurore, dunque anche in Francia la seguono ovviamente con grande trepidazione. Ebbene, dice la sorella di Garcia, che si chiama Sandrine, mi piaceva starla a guardare quando provava le sue prime tattiche con il subbuteo. Questa non è nuovissima, perché molti allenatori hanno usato il subbuteo per studiare la tattica. Non aveva neppure 10 anni, ma è più divertente il racconto di Sandrine Garcia sulla rapidità con la quale il suo fratellone ha imparato l'italiano. Come ha imparato l'italiano? Ebbene, l'ho chiuso un'ora e mezza con un mio dipendente in pizzeria. Quando è uscito da quella full immersion lo parlava. Attenzione, quindi un'ora e mezza chiuso in uno sgabuzzino in pizzeria e dopo Garcia miracolosamente parlava già l'italiano. Tutti convocati. Torniamo subito, siamo qui fino alle 15:20, anche e soprattutto per parlare con voi, 800 24 00 24, numero verde. C'è per l'appunto questa dichiarazione che ho già citato prima, ma ora ve la faccio anche sentire, di Conte a proposito di Tevez Zoppo. Sentiamolo. Vediamo Tevez come sta, perché ieri non si è allenato. Vediamo, è inevitabile che io ho bisogno di garanzie ben precise. Non metterò mai un giocatore che zoppica

sembra che solo la nazionale italiana sia sempre condannata alla vittoria, quindi normalmente abbiamo una squadra forte, normalmente lo riusciamo a correrlo anche tatticamente bene, e poi molto spesso arriva il portoghese di turno che ci bagna il naso e allora sono polemiche, allora viene messo in discussione il CT. Ma non è che ci sia una vera ragione in tutto questo, eh? O no? Sapeva Uran, era tutto diverso, magari non vincevamo comunque, ma un bel finale c'era. Invece così questi due non li classifico nemmeno, perché si odiano tutto l'anno, e Valverde ha preferito che perdesse il mondiale, l'ha fatto apposta, basta. Ecco, poi volevo dire anche una cosa, anche se Pippo è un mio conterraneo, perché Pippo arrivi a fare qualcosa di buono al mondiale, il mondiale dovrebbe durare 20 km di meno. Questa e allora è suo. Adesso gliela ritweetiamo, Pozzato. Però gli voglio bene, sì. Sono di Castelfranco, lui sa che piazza io adoro, siamo. Io adoro gli sportivi così, grande estro, grande talento e in fondo quel pizzico di pigrizia che li rende irresistibili. Ci salutiamo qui, Franco Piantonetti, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, naturalmente tutti convocati domani pomeriggio alle 2. Ciao.